Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Non ci è dato conoscere l'R con zero nelle prossime settimane. Non lo troviamo scritto da nessuna parte. Nessuna previsione scientifica può spingersi a predirlo con sicurezza. Esso dipenderà dalla nostra capacità di vivere questa seconda fase con pari senso di responsabilità. Io sono fiducioso, grazie. Questo è uno dei passaggi, diciamo, un po' più conclusivi di oggi del Presidente del Consiglio Conte durante l'informativa, prima alla Camera e poi al Senato, in cui, diciamo, ha difeso la strategia del governo e dei suoi decreti nella gestione dell'emergenza, dell'epidemia, ma anche proprio nel delineare poi la fase 2, che è quella che appunto dovrebbe iniziare dal 4 maggio. E ci occuperemo di questa giornata così intensa in Parlamento, con le reazioni, le critiche forti da parte dell'opposizione, per esempio Salvini, ma anche molto da parte di un componente del governo, Italia Viva, Renzi, il leader, che ha detto: non abbiamo negato i pieni poteri a Salvini lo scorso agosto per darli poi un altro, sottolineando appunto, sottintendendo a Conte. E poi c'è anche l'annuncio di poco fa, ecco, ci sono già degli aggiornamenti costanti che stanno arrivando. Sapete che c'è anche questa tensione tra il governo e alcune regioni, che stanno facendo, come si dice, una fuga in avanti sulle ordinanze più espansive rispetto a quelle del governo, e quindi in particolare oggi si è parlato della Calabria, della Presidente Santelli, che ha deciso di dare il via libera a bar e ristoranti e agriturismi all'aperto. E allora il Ministro degli Affari Regionali Boccia ha minacciato, anzi ha detto che in questi minuti stava mandando una diffida nei confronti della Regione Calabria. Vedo proprio adesso Renzi che dice: la Calabria riapre bene se in sicurezza. Quindi continua un braccio di ferro, uno scontro, una partita molto difficile anche in questi momenti, insomma, tra il governo, non solo le opposizioni e alcune regioni, ma anche all'interno della maggioranza stessa. Tantissime cose da raccontarvi, torneremo poi anche sul vaccino, perché ci sono delle confortanti novità per il momento, non vogliamo allargarci troppo, e poi molte altre cose. 349-238-6666 è il numero per SMS e WhatsApp, se volete scrivere i vostri commenti, i vostri messaggi, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. I dati confortanti sul coronavirus in Italia: calo record di malati, grande aumento di quelli che guariscono, in 15 giorni dimezzate le vittime. Conte si difende in Parlamento, ma Renzi lo attacca: abbiamo detto no a pieni poteri a Salvini, ma non per poi darli a un altro. Lo scontro con le regioni: il ministro Boccia annuncia la diffida per la presidente della Calabria, che ha dato via libera a bar e ristoranti all'aperto. Effetto Notte avremo il presidente dell'ANCI, De Caro. Si valuta la riapertura di nidi materne e dei centri estivi, e la ministra Azzolina conferma: la maturità si svolgerà in presenza, la mascherina non servirà se le persone saranno distanti. Il vaccino italo-inglese: passi avanti nella sperimentazione ed entra nella squadra per accelerare la multinazionale farmaceutica AstraZeneca. La salute del mare nel Tirreno è il record mondiale di microplastiche sul fondale. Partiamo quindi dai dati forniti, come sempre, dalla Protezione Civile sull'epidemia di Covid-19 in Italia. Sono 75.945 i guariti da coronavirus nel nostro paese, con un incremento record di 4.693 rispetto a ieri. È l'aumento maggiore dall'inizio dell'emergenza. I dati di oggi sono molto confortanti, significa che stiamo andando nella direzione giusta. Lo ha detto il pneumologo del Gemelli e membro del Comitato Tecnico Scientifico, Luca Richeldi, sottolineando che 6 regioni non fanno registrare decessi e altre 9 ne hanno meno di 10. I dati di oggi sono molto confortanti, nel senso che vediamo che gli indici che siamo abituati a vedere e a seguire ancora una volta vanno nella direzione giusta, e abbiamo chiaramente una conferma che le misure che sono state attuate hanno portato a una drastica riduzione della straordinaria pressione sul Servizio Sanitario Nazionale che abbiamo visto nelle scorse settimane. E aggiunto: se guardiamo agli ultimi 15 giorni, ha aggiunto Richeldi, abbiamo dimezzato il numero dei deceduti, raddoppiato quello dei guariti, ridotto della metà le terapie intensive e ridotto significativamente il numero dei ricoverati. L'informativa della Camera oggi, alla Camera, poi al Senato, del Presidente del Consiglio Conte, che ha aggiornato il Parlamento sull'andamento dell'epidemia e sulle misure che saranno prese prossimamente, difendendo la strategia del Governo nell'affrontare l'epidemia. Ma tra le critiche è arrivato l'ultimatum del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a Conte. Ha detto: se decide di scegliere il populismo, Italia Viva non sarà della partita. La linea del governo sulla fase 2 agita le acque nella maggioranza. Italia Viva torna all'attacco chiedendo un allentamento delle misure per far ripartire l'economia italiana. Non abbiamo negato pieni poteri a Salvini per dargli ad un altro, avverte Renzi, che manda un ultimatum a Conte. Se lei ci vorrà al suo fianco, noi ci saremo, a condizione di fare le cose che servono agli italiani. Se dobbiamo essere su un crinale populista che dice alla gente quello che la gente piace sentire, noi non saremo al suo fianco. Ad incalzare Conte e anche il centrodestra, la Lega continuerà la sua protesta occupando le aule di Camera e Senato fino a quando non ci saranno risposte, dice Salvini. Fino ad oggi abbiamo portato pazienza, milioni di italiani dopo 50 giorni di reclusione non ce la fanno più. Non ci muoviamo dal Parlamento fino a che tutti i cittadini non avranno capito che cosa li aspetta. Anche il Senato intanto ha dato il via libera al DEF e allo scostamento di bilancio da 55 miliardi che servirà a finanziare il decreto aprile, la cui approvazione slitta alla prossima settimana. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E il Presidente del Consiglio Conte ha anche sottolineato che iniziative che comportino misure meno restrittive da parte delle regioni non sono possibili. Inizia a parlare senza mascherina tra le proteste dell'emiciclo, citando Platone e Aristotele per richiamare la differenza tra opinioni e tesi scientifiche, e chiude con un omaggio ai cittadini italiani per i sacrifici fatti e i comportamenti virtuosi. Il Premier Giuseppe Conte parla per quasi un'ora alla Camera. Nella sua informativa striglia gli enti locali per le fughe in avanti che definisce illegittime. Promette 15 miliardi per le piccole e medie imprese e dopo 45 minuti circa cita per la prima volta da inizio lockdown fra le preoccupazioni del governo i bambini e i ragazzi. Per molti bambini il pasto nelle mense scolastiche è di norma, purtroppo, il pasto più completo della giornata. Oppure ancora che in alcune famiglie mancano adeguati strumenti informatici per consentire ai figli di poter continuare a studiare anche a distanza. Occorrerà valutare la possibile riapertura in modalità sperimentale di nidi, scuole dell'infanzia. E ricorda che siamo nel pieno dell'epidemia, ma promette, se al termine delle due settimane del decreto sulla fase 2 ci saranno miglioramenti, si potranno pensare ulteriori allentamenti delle misure. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di tutto questo torneremo a parlare tra poco, così come dell'annuncio da parte del ministro degli affari regionali Boccia di una diffida nei confronti della presidente della Calabria, Iole Santelli, che ha emesso un'ordinanza regionale oggi con la quale dà via libera a bar, ristoranti e agriturismi all'aperto. Lo vogliamo sentire adesso Boccia, altrimenti lo sentiamo dopo quando ci dedichiamo allo spazio della politica. Dopo, lo mandiamo dopo. Allarme intanto per quanto riguarda il PIL sulla caduta libera del prodotto interno lordo italiano, che l'Istat segnala risentire degli ostacoli dell'emergenza coronavirus. Nel primo trimestre 2020 è calato il PIL del 4,7% sul trimestre precedente e del 4,8% sull'analogo periodo dello scorso anno, ma va meglio della Francia, che perde il 5,8%, e della Spagna 5,2%. Il Presidente del Consiglio Conte ha detto: il rischio di una persistenza del virus porterebbe a una contrazione del PIL fino a meno 10,4%. Intanto prezzi fermi, ma non per i beni essenziali, mentre la disoccupazione cala perché non si cerca lavoro. Mai avuto un calo così forte, questo è il commento dell'Istat sul PIL nel primo trimestre, che crolla a meno 4,7%, mai così dal 1995. Giù tutte le componenti produttive, la stima risente degli ostacoli del coronavirus. Negativa anche la variazione del PIL rispetto all'anno scorso e del 4,8%, e a bocce ferme del 4,9% il risultato che si avrebbe in assenza di ulteriori variazioni fino a fine anno. Impatto del Covid-19 anche sul mercato del lavoro. brusco calo della disoccupazione in discesa all'8,4%. Lievita il numero degli scoraggiati, di coloro cioè che non lavorano e non cercano occupazione. Donne e uomini, tiene l'occupazione, ma è boom dell'inattività, addirittura 300.000 persone in più, tre volte più elevata tra gli uomini rispetto alle donne, e impatto in senso opposto anche sul carrello della spesa, che mostra un balzo del 2,6% ai massimi dal 2017, ma le spinte sono contrapposte sugli alimentari, giù i carburanti. La forbice dell'inflazione sul carrello della spesa non è però mai stata così ampia. Ad aprile l'inflazione è stata azzerata. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi, sceglie la sua squadra e attacca il governo sulla fase 2, tra i 10 vice anche Luigi Gubitosi con delega al digitale, mentre Maurizio Stirpe è al lavoro e alle relazioni industriali. Da Bonomi arriva all'affondo, appunto, per una fase 2 vista come un caotico susseguirsi, dice, di misure incerte e contraddittorie. Poi la proposta, lavorare perché entro l'estate sia pronto un grande piano Italia 2030-2050, un libro bianco di medio periodo degli obiettivi dell'industria e della crescita. La Banca Centrale Europea lascia i tassi fermi a zero e lancia una nuova serie di operazioni di rifinanziamento per l'emergenza pandemica. Nell'Eurozona siamo di fronte a una crisi economica mai vista, riflette la Presidente Christine Lagarde, con un prodotto interno lordo che quest'anno potrebbe cadere fra il 5% e il 12%. Via libera intanto all'accordo europeo per creare il Recovery Fund, pronti a tutto per sostenere i cittadini. Poi difende l'Italia, dice, non tollereremo rischi di frammentazione delle Eurozona. Intanto, per quanto riguarda la Borsa di Milano, chiude in forte calo, meno 2%. All'estero, nonostante i casi abbiano superato il milione, i morti quota 60.000 negli Stati Uniti, il presidente americano non rinnova le restrizioni in vigore da 45 giorni per il Covid, e mezza America domani riparte, poi ci collegheremo direttamente con gli Stati Uniti. Intanto si ha qualche notizia in più sul mistero del leader coreano Kim Jong-un. È malato, lo ha detto Chu Kwok-cheng, direttore dell'intelligence di Taiwan, in Parlamento. Sulla base delle indiscrezioni dei media internazionali, Kim potrebbe essere gravemente malato, addirittura morto, e sul punto, alla richiesta di chiarimenti di un parlamentare, Chu, direttore dell'intelligence di Taiwan, ha replicato che il leader nordcoreano è malato. All'ulteriore domanda se sia ancora vivo, ha sorriso senza rispondere nel resoconto fatto dell'agenzia statale CNA. Incalzato ancora, sempre appunto il direttore dell'intelligence di Taiwan, ha replicato che ci sono piani d'emergenza in caso di un vuoto di potere in Corea del Nord. E la pandemia, partita dalla Cina e che ha finito per stravolgere il mondo intero, non è stata causata da un virus prodotto dall'uomo o geneticamente modificato. Queste sono le conclusioni a cui è giunto con ampio consenso la comunità degli 007 americani. Di nuovo in Italia per parlare di un prossimo sciopero: impianti di benzina chiusi il 13 e 14 maggio nelle aree di servizio autostradali. Dopo 9 settimane di prese in giro, di impegni non mantenuti, di promesse lasciate cadere nel vuoto, di retromarce imbarazzante e infine di silenzi ingiustificabili, le organizzazioni sindacali del settore hanno proclamato lo stato di agitazione dell'intera categoria e una prima tornata di scioperi che prenderà avvio proprio dalla rete autostradale. Ci sono tanti fili di storie di persone e imprese che vivono tra Italia e Cina, che in questi mesi hanno vissuto l'impatto della pandemia di Covid-19. C'è chi ha vissuto bene i due lockdown in Cina e in Italia, nel paese del dragone e appunto nel nostro paese, o chi ha visto la propria azienda e il presidio in Cina convertirsi, come è successo a ben 2000 aziende. Fili che vogliamo riannodare nel reportage Cina Italia, andata e ritorno nella lotta al virus, di Anna Marino, in onda sabato alle ore 8:15, ma sentiamo un'anticipazione. Sono risuonate soltanto le sirene, i clacson delle auto nei 3 minuti di silenzio in cui tutta la Cina, alle 10, le 4 in Italia, si è fermata per ricordare le oltre 3.300 vittime del coronavirus e i primi martiri dell'Hubei caduti nella lotta contro la pandemia. Finito il durissimo lockdown per l'emergenza Covid-19, 76 giorni a cui è stata sottoposta la popolazione della città cinese, primo focolaio di coronavirus. E noi, per ricordare, partiamo dalle storie delle persone, italiani con una vita tra il nostro paese e la Cina, che hanno vissuto settimana dopo settimana il precipitare di fatti ed eventi sulla propria pelle. Gioele Leone ha 19 anni, è nato e cresciuto a Milano. Nel 2016 ha fatto la terza superiore con i ragazzi cinesi. Vive in Cina da quando ha iniziato a settembre 2019 i suoi studi in affari internazionali e diplomazia alla migliore università dell'Asia, la settima nel mondo, a Pechino. Ecco il giorno in cui è scoppiato il coronavirus nella vita di Gioele. Io mi trovavo a Shanghai perché erano le vacanze del Capodanno cinese, stavo prendendo un treno per tornare a Pechino e vedevo tutti i capi stazione, tutti i camerieri sulle stazioni che avevano la mascherina, mentre le persone non ce l'avevano. Aprendo WeChat, social network tipo WhatsApp, ho notato che c'erano tanti articoli riguardanti la situazione di Wuhan. Alla fine l'orizzonte resta qui. In Italia e nel paese del dragone la prospettiva di una fase 2 e di una fase 3 e c'è un appello in cinese che vale per tutti, parola di Gioele che vede comunque in Cina il suo futuro. Da jia jia yo, tu bao zhong, che vuol dire forza a tutti e fate attenzione. Anna Marino, Radio 24, il Sole 24 Ore. Notizie per quanto riguarda il vaccino italo-inglese di cui abbiamo parlato più volte qua effetto notte, si fanno passi avanti nella sperimentazione ed entra nella squadra tra il laboratorio di Pomezia e l'Università di Oxford per accelerare il percorso verso il vaccino la multinazionale farmaceutica AstraZeneca. Poi ne parleremo con il direttore scientifico del laboratorio di Pomezia, ancora una volta qui ad effetto notte. Per chiudere questa notizia terribile che riguarda il nostro mare, in particolare il mare Tirreno. Nel Tirreno è presente la più alta concentrazione di microplastiche mai misurata nei fondali marini del mondo. Nello specchio di mare compreso fra Toscana, Lazio, Sardegna e Corsica si possono contare fino a circa 2 milioni di frammenti per metro quadrato. 2 milioni di frammenti per metro quadrato. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Science dalle università di Manchester, Durham e Brema insieme al Centro Oceanografico Britannico e all'Istituto Francese di Ricerca per lo Sfruttamento del Mare. Direi che qui ci possiamo fermare per questa prima parte di Effetto Notte, in modo tra pochissimo, dopo la viabilità, di cominciare ad approfondire alcuni temi con gli ospiti. Per i vostri commenti, sms, whatsapp oppure pagina Facebook di Effetto Notte, continuate, dicevo, il numero per sms e whatsapp è sempre lo stesso, 349-238-6666. A tra pochissimo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci qua, sempre Roberta Giordano con voi, naturalmente come tutte le sere dalle 21 alle 22, dal lunedì al venerdì, anche se domani mi riposo anch'io, quindi questa è l'ultima puntata della settimana, sono qui con voi dopo avervi raccontato in sintesi i fatti principali della giornata. Adesso cominciamo invece ad addentrarci in certi argomenti in particolare. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp oppure c'è la pagina Facebook di Effetto Notte. Vedo Luigi che dice: per favore chieda della sindrome Kawasaki riscontrata in Gran Bretagna. Luigi, allora, non ho virologi questa sera, non è che si può fare qualsiasi domanda e avere tutti i tipi di risposte. Questa sindrome di Kawasaki, perché l'ho letto, perché mi informo un po' su tutto, è una sindrome che purtroppo colpisce soprattutto i bambini e ci sono stati dei casi anomali, per esempio a Bergamo, è un'infiammazione dei vasi sanguigni, quelli del cuore, piuttosto grave. Sembra che ci sia stato appunto un aumento piuttosto anomalo, di più in questo momento non so dirvi. Dopodiché Lidia dice invece: questo continuo litigare tra i nostri politici è uno spettacolo tristissimo che non rispetta né i morti né le sofferenze di tutti. In parte direi che è vero, anche se le critiche, la polemica, il dibattito politico ci deve essere, però non so se questo se sono i toni giusti. Comunque adesso parliamo di addentriamo nella pagina politica e direi di partire con questo passaggio di Conte. Un recente rapporto del Comitato Tecnico Scientifico, che è stato anche evocato all'origine di questa seduta, non è segreto, è stato pubblicato anche sui giornali. In questo rapporto del Comitato Tecnico Scientifico viene stimato che la riapertura simultanea di tutte le attività economiche, delle scuole e di tutte le opportunità di socialità a partire dal 4 maggio porterebbe un incremento esponenziale e incontrollato dei contagi. È uno dei tanti passaggi del lungo discorso, della lunga informativa del Presidente del Consiglio Conte oggi, prima alla Camera, poi al Senato. spiegando la sua strategia anche per la fase 2 al Parlamento e in particolare alle opposizioni, che naturalmente lo hanno criticato, l'hanno attaccato, ma anche da parte di Renzi, che pure fa parte con Italia Viva del governo. E poi, diciamo, l'altro fronte è quello con le regioni, perché diverse regioni stanno tentando una fuga in avanti, c'è l'alto là da parte del governo, in particolare il ministro degli affari regionali Francesco Boccia ha detto che fino al 18 maggio tutti si devono, l'aveva già detto ieri, insomma, in qualche modo adeguare all'ordinanza, ai decreti del Presidente del Consiglio, poi dal 18 maggio si può vedere se fare delle differenziazioni, delle aperture diverse a seconda del numero dei contagi nelle varie regioni. Allora, va detto per esempio che la Liguria ha permesso di andare a cavallo, di potersi occupare delle proprie imbarcazioni, il Veneto ora è più cauto, anche se è quello che sembrava andare più avanti, ieri Zaia però ha piuttosto frenato. L'Abruzzo ha aperto alla toilettatura degli animali di compagnia, attività motorie su tutto il territorio comunale, attività di pesca, passeggiate a cavallo, allenamento, addestramento dei cani, taglio dei boschi, raccolta della legna, cibo da asporto, possibilità di raggiungere le seconde case per manutenzione, andare in auto insieme o sulle moto in due se si risiede nella stessa abitazione, eccetera eccetera. Questo è il presidente dell'Abruzzo Marco Marsilio. L'Umbria ha inviato al governo un cronoprogramma di riaperture, ma dice la presidente Tesei, però abbiamo scelto la strada dell'istituzionale del dialogo con il governo. L'Alto Adige va invece per la sua strada, la giunta provinciale ha approvato il disegno di legge che anticipa la tabella di marcia di Conte e dall'8 maggio possono riaprire le attività commerciali, le attività produttive nei settori industria e artigianato, dall'11 maggio possono riaprire le attività inerenti al servizio della persona, fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti, anche servizi di ristorazione, bar, eccetera, eccetera. Ma quello che ha fatto discutere di più è stata la decisione, l'ordinanza della presidente Santelli della Calabria, di Forza Italia, che ha emesso un'ordinanza che permette a bar e ristoranti all'aperto di poter aprire. Ha suscitato un vespaio di polemiche anche proprio all'interno dei comuni, con diversi sindaci che si sono smarcati, per esempio Reggio Calabria, governata dal centrosinistra, ma anche altri comuni, anche a trazione di centrodestra come Catanzaro. E vogliamo sentire Boccia che cosa ha detto poco fa a proposito, che aveva già annunciato possibili diffide ieri, sentiamo nei confronti della Calabria oggi. Mi dispiace, ho annunciato poco fa la presidente Santelli che partirà tra pochi minuti la diffida per quell'ordinanza e se non dovesse essere ritirata sarà impugnata. E va detto che oggi il sindaco di Bari, nonché presidente dell'ANCI, cioè dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, quindi presidente dei sindaci, diciamo, ha detto: se volete una sfida da parte degli enti locali, noi l'accettiamo, possiamo iniziare emettendo ordinanze che disapplicano le ordinanze regionali. Allora saluto il sindaco e presidente dell'ANCI Antonio De Caro, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Quindi lei ha lanciato una sfida, nel senso fate pure le ordinanze a quelle regioni che intendono fare ordinanze più espansive, andare oltre il decreto del Presidente del Consiglio, e dice così noi poi dopo le disapplichiamo? Io ho soltanto risposto a alcuni presidenti di regione in una polemica con i sindaci. Noi abbiamo avuto senso di responsabilità. Credo che in maniera rivoluzionaria 8.000 sindaci sono andati al Presidente del Consiglio e hanno detto: bene, noi abbiamo il potere di ordinanza sanitaria, l'articolo 50 del testo unico sugli enti locali, chiediamo la sterilizzazione, perché se ogni sindaco si mette a decidere se aprire o chiudere attività, scuole, ovviamente creiamo un problema al Paese in una vicenda che va seguita con un'unica cabina di regia e con un comitato tecnico scientifico che supporta la politica nazionale. Dopodiché noi abbiamo fatto questa scelta, le regioni non hanno fatto la stessa scelta, noi rispettiamo le autonomie regionali, nessuno di noi rappresentiamo le autonomie per eccellenza, ci chiamiamo, ci definiamo autonomie locali, comuni, figuriamoci se vogliamo invadere l'autonomia delle regioni, però le regioni non devono interferire con le autonomie dei sindaci, nel senso che se decidono nell'ambito del solco del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di dare la possibilità, interpretando in maniera estensiva la possibilità motoria, non solo a piedi correndo ma utilizzando il cavallo, se decidono di aprire i cimiteri perché non c'è un DPCM che lo vieta ma soltanto una circolare del Ministero della Salute, bene, ma quando un presidente di regione, senza ascoltare i sindaci, la sera emana un'ordinanza che ha effetti la mattina successiva e prevede l'occupazione di suolo pubblico, di tavolini che i sindaci devono autorizzare, non certo in una mattinata, e i sindaci devono controllare, ovviamente i sindaci non ci stanno, ed è quello che è accaduto in alcune regioni. Fino a quando si muovono nell'ambito della loro autonomia lo possono fare, altrimenti i sindaci che hanno chiesto al governo e ottenuto la sterilizzazione di quel potere si ricordano che il DPCM del presidente Conte comunque a un certo punto dice che comunque quell'articolo 50 del testo unico degli enti locali resta valido se le decisioni sono prese nel solco del DPCM. Allora, tra un'ordinanza di una regione che disapplica il DPCM e un'ordinanza invece di un sindaco che va nel senso del DPCM, io credo che valga più l'ordinanza del sindaco rispetto a quella del presidente della regione. Lei dice De Caro non vuole che decisioni delle regioni poi si scarichino sui comuni, sui sindaci, insomma. Si scaricano ovviamente, perché stamattina quei sindaci si sono svegliati e hanno avuto il problema di dover incontrare i titolari dei bar e dei ristoranti che chiedevano l'occupazione di suolo pubblico, dicendo l'ha detto il presidente della regione, ma con un'ordinanza, ma ovviamente il sindaco a normativa vigente deve fare 8 procedure per autorizzare i tavolini all'esterno, e contemporaneamente ci sono i sindaci come me, per esempio, che fa il sindaco in una regione dove ci sono forse meno contagi della regione che ha deciso di aprire bar, ristorante e mettere i tavolini fuori, che si chiedono perché invece le attività economiche della mia città devono stare ancora chiuse. Questo è il problema che nasce. Chiaro. Quando interferisci con le attività del sindaco, se poi decidete di aprire in accordo con il governo, in disaccordo con il governo, le attività produttive, i cantieri fuori dalle città, potete fare quel che volete, ma quando avete a che fare con il territorio comunale, quantomeno avete l'obbligo di ascoltare i sindaci. Chiaro, l'ultima cosa, De Caro, Fabbri, Alan Fabbri, sindaco di Ferrara e vicepresidente dell'ANCI Emilia Romagna, ha detto: De Caro si accorge troppo tardi del presunto protagonismo delle regioni, tanto che non si è mai infastidito degli show e delle ordinanze del governatore De Luca della Campania, che guarda caso è del suo partito. De Caro parla a nome del PD. Lei cosa risponde in sintesi, De Caro? Antonio De Caro non risponde né a un partito e nemmeno alle regioni, io rispondo solo ed esclusivamente ai sindaci, spero lo facciano anche gli altri sindaci. Vorrei ricordare che il segretario del mio partito è un presidente di regione, quindi non mi sembra di essermi schierato con un partito, io sono autonomo perché vengo eletto dai sindaci, farebbero bene anche gli altri sindaci a parlare come parla il presidente dell'ANCI, non in nome e per conto di un partito o di alcune regioni. Grazie Antonio De Caro, ricordo sindaco di Bari e presidente dell'ANCI, grazie e buon lavoro. Grazie a lei. Grazie. Oh, invece adesso saluto la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore, bentornata Barbara. Grazie, buonasera. E parliamo dell'impegnativa giornata parlamentare, in particolare per Conte, no? Che già ieri dicevamo assediato dalle regioni con le fughe in avanti, dall'opposizione, ma anche all'interno della stessa maggioranza, che forse tra i vari attacchi che ha subito oggi è probabile che uno dei più forti li abbia ricevuti proprio da Renzi, di Italia Viva, che è partito che fa parte del governo. Renzi ha detto fra le varie cose: è sbagliato far decidere i virologi sulla politica, non si può sempre abdicare come è successo anche in anni passati. Anzi, farei sentire proprio questo passaggio di Renzi che dice: non devono decidere i virologi, ci vuole più coraggio, deve essere la politica a questo punto a prendere decisioni. Di fronte a questa emergenza incredibile, noi non possiamo delegare tutto alla comunità scientifica, però vede, signor Presidente, questo Paese, non per colpa sua, ma negli ultimi 30 anni ha già avuto dei momenti in cui si è affermato ed ha abdicato le proprie responsabilità, questa politica. Oggi noi non possiamo pensare di chiedere a un virologo non di come combattere il virus, ma di come combattere la disoccupazione o la carneficina di posti occupazionali o di come decidere la qualità della vita tra di noi. E poi però ha anche detto: noi non abbiamo evitato che prendesse i pieni poteri Salvini per darli a un altro. Ha fatto una citazione dotta greca, mi lasci dire con Seneca: non licet tibi, qui quam arbitrio tuo facile. Ma non al presidente Conte, a qualsiasi presidente, lo dico qui perché in quest'aula io rivendico di aver contribuito a creare un altro governo quando un senatore, il senatore Salvini, ha chiesto i pieni poteri, non li abbiamo negati a lui per darli ad altri, è un fatto costituzionale che dobbiamo tutti insieme difendere. E ora faccio sentire, non tutti ovviamente, un lunghissimo discorso quello di Conte, è uno dei tanti passaggi che dice: noi ci siamo basati sulla scienza. Imperativo categorico per un governo chiamato ad affrontare questa emergenza, una sfida così complessa, un governo che deve proteggere la salute, la vita stessa dei cittadini di fronte a una minaccia così concreta, così letale, porre a fondamento delle proprie decisioni non già le libere, anche mutevoli opinioni che si susseguono e che di volta in volta prevalgono nell'ambito dell'opinione pubblica, ma bensì le raccomandazioni frutto di meditate ricerche e riflessioni di qualificati esponenti del mondo scientifico. Però Barbara, Renzi ha fatto capire in qualche modo a Conte che il suo, quello di Renzi, di Italia Viva, è un ultimatum nei confronti del Presidente del Consiglio. Dice: se decide di scegliere il populismo, Italia Viva non sarà della partita. Che cosa significa questo? Tradotto? Significa che, come dire, una sorta di altolà Conte, se continui a voler fare tutto da solo, l'ha detto, no? Lo ha paragonato al Salvini dei pieni poteri, insomma. È molto criticato Conte anche per la sua presenza televisiva, per queste conferenze stampa ripetute nel weekend, insomma, se continui a voler decidere tutto tu, a fare tutto da solo, allora sappi che noi siamo pronti a toglierti la fiducia e quindi a farti cadere, questa in sostanza. Dopodiché questa minaccia mi sembra più una minaccia, come dire, per fare rumore che reale. Io non ci credo assolutamente, non ora comunque. Che si sfili, cioè, che si sfili Italia Viva dal governo, non ci credi? Ma non credo che nessuno in questo momento, vorrei dire persino l'opposizione, in questo momento specifico possa pensare a una crisi di governo. Cioè siamo nella fase, all'inizio della riapertura, con comunque ancora 300, siamo sotto i 300 morti al giorno, va bene, per meglio, tutto a posto, però no, tutto a posto per niente, tutt'altro, e quindi penso che una crisi di governo in questo momento, chiunque la provocasse ne rimarrebbe sepolto. Cosa diversa invece è se, questo è quello che io penso, non quello che so che accadrà, che è una cosa ben diversa, è una valutazione che faccio, visto come qual è la situazione, anche i rapporti all'interno della maggioranza. Diverso invece, secondo me, è qualora la situazione emergenziale sanitaria, cioè del coronavirus, dovesse ulteriormente migliorare, mentre ci troveremo di fronte a una, come dire, sempre di più a quello che il coronavirus sull'economia ha provocato, perché oggi sono solo una parte degli italiani che già ne sentono in modo pesante gli effetti. Gran parte degli italiani la stanno sentendo, come dire, per le misure del fatto che dobbiamo rimanere a casa, però economicamente la sentono una parte degli italiani, gli è già arrivata addosso la crisi. Man mano che passeranno le settimane si estenderà questa crisi anche ad altri settori, a molte altre persone, famiglie, e più questo arriverà addosso alle persone, più chiaramente l'insofferenza, la paura, tutta una serie di sentimenti negativi purtroppo emergeranno. Lì potrebbe esserci un momento di rottura, lì sì. E poi in tutto questo c'è sempre i rischi che possono arrivare dall'esterno, cioè voglio dire che il coronavirus nessuno l'aveva previsto ed è arrivato. L'altro rischio dall'esterno, che però ahimè è più prevedibile invece, sono i mercati finanziari, perché insomma dall'esterno si stanno vendendo titoli italiani, la BCE per adesso continua a comprare, però insomma un paese che è costretto a indebitarsi per pagare stipendi e pensioni, come ripeto sempre, perché secondo me bisogna sempre averlo chiaro questo, è un paese fragile anche quando deve, soprattutto in fasi così drammatiche, quando deve recuperare le forze, quando deve iniettare forza al proprio sistema produttivo per crescere. Quindi le ragioni, insomma, della mia preoccupazione, del rischio che si possa andare ad una crisi di governo, sono legate appunto sia a quelle che possiamo dire la rottura, no, del patto di maggioranza, ma anche a un'evoluzione pesante di questa crisi economica che ci è accaduta addosso, che è accaduta addosso a tutto il mondo, ma che chiaramente sui paesi che già non se la passavano bene si fa sentire ancora più forte. Senti, a questo proposito, a Zingaretti, segretario del PD e componente importante del governo, alla domanda c'è la possibilità che in questo momento appunto ci sia una crisi di governo, si possa pensare ad altro tipo di governi, governissimi eccetera, sentiamo la risposta di Zingaretti. Guardi, noi dobbiamo ora affrontare il tema di sconfiggere il virus, di aiutare le imprese e sostenere il lavoro. Questo lo deve fare un governo che una maggioranza ce l'ha, con un confronto con l'opposizione. Io credo che questi elementi ci siano tutti e debbano essere gli unici punti all'ordine del giorno. Quindi mi auguro che ci sia concordia per sconfiggere il virus, per sostenere le imprese, per creare lavoro ed essere vicini a chi soffre. Barbara, ti farei sentire anche Salvini quando dice che il governo è in mano una lobby. Sentiamo quale lobby, secondo Salvini. Abbiamo come l'impressione, questo ce lo dicono tutti gli imprenditori, piccoli, medi e grandi, che ci sia qualcuno che conta più di altri nell'influenzare il governo. Non le imprese, non i produttori, non i lavoratori, non i genitori, ma qualche lobby ben potente. Facciamo un nome a caso, la CGIL. C'è un paese intero in ostaggio della CGIL che dice quello che si può e non si può fare. Forse non ho molta memoria in questo senso nel percorso precedente di Salvini, ma è una delle prime volte che attacca la CGIL. Barbara, cambiato posizione. Ha attaccato in altre occasioni, ha attaccato più in generale i sindacati. Quindi la cosa non è che mi sorprende. No, non mi sorprende. Devo dire che in questo momento tutti hanno le loro ragioni, non è che c'è qualcuno che ha torto, perché tutti, sia i partiti dell'opposizione che il governo, che appunto i sindacati o le categorie produttive, nel momento che esprimono, perché i sindacati per antonomasia devono difendere i posti di lavoro e i lavoratori, per cui chiaramente la posizione dei sindacati a difesa di eventuali, no, della sicurezza dei lavoratori e dall'altra parte anche, come dire, di un rispetto di tutta una serie di regole è legittima, è giusta. Allo stesso modo è corretto ed è giusto che i datori di lavoro, gli imprenditori premano, che stanno facendo capire in tutti i modi al governo: attenzione, perché noi non riapriamo più, attenzione, qui finisce, che rimaniamo sotto le macerie del coronavirus. Diciamo, quindi, sempre questa situazione complicatissima, difficilissima, sì, di dover tenere insieme appunto la necessità, l'esigenza assoluta di far ripartire l'economia italiana e dall'altra di non cadere di nuovo in un lockdown, altri morti eccetera eccetera. Adesso dal 4 maggio, con 4 milioni e mezzo di lavoratori in più che quindi andranno nelle strade, sui mezzi di trasporto eccetera, si vedrà man mano, si capirà navigando un po' a vista, come purtroppo siamo tutti stati costretti a fare finora, che cosa succede e di lì, no, si comprenderà quale può essere la strada da imboccare volta per io volta. Io penso che più che dal 4, cioè credo che sarà un percorso, Roberta, settimana per settimana. Infatti questa circolare, questo decreto che ha fatto il Ministero della Sanità prevede proprio un monitoraggio settimanale. Costante. Anche e lì veramente allora si potrà decidere che magari in Calabria apriamo i ristoranti e i bar e invece a Milano resteranno ancora chiusi fino a quando certi indici non torneranno a una normalità. Però nessuno in questo momento, neanche i virologi, neanche no, loro stessi hanno ammesso più volte, insomma, di conoscere pochissimo questo virus e di non sapere che cosa quindi potrebbe succedere da un momento all'altro. Cara Barbara Fiammeri, però per il momento ci lasciamo così, un abbraccio come sempre, cara Barbara, e ci ritroviamo molto presto. Grazie, poi, buon primo maggio. Buon primo maggio. Ciao Barbara, pausa per le vostre riflessioni, 349-238-6666, sms o whatsapp, pagina Facebook di Effetto Notte, torno ratta come la folgore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, lo sapete ormai da tempo che siete al posto giusto, nel momento giusto, con voi sempre Roberta Giordano a raccontarvi ogni giorno che cosa c'è di più importante da sapere, in modo che un giorno non potrete dire io questa non la sapevo, a proposito appunto di qualsiasi notizia importante. Abbiamo scandagliato a lungo questa giornata politica con l'informativa di Conte in Parlamento, le reazioni politiche, con le fughe di alcune regioni in avanti, quindi anche le reazioni sia da parte del governo, e poi abbiamo avuto anche ospite il presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Antonio De Caro. Adesso invece torniamo su un tema a sua volta molto molto importante, che è il tema per quanto riguarda il coronavirus più importante, cioè il vaccino, la vera unica arma per annientare il coronavirus. Vi avevo raccontato settimane fa in collegamento con il direttore scientifico del laboratorio IRBM, che è un centro di ricerche biotecnologiche e mediche di Pomezia, vicino Roma, di un promettente vaccino messo a punto in partnership dal laboratorio di Pomezia, questo laboratorio di Pomezia, e lo Jenner Institute dell'Università di Oxford in Inghilterra. La settimana scorsa poi era tornato ospite qui a Effetto Notte ancora il direttore scientifico di IRBM Carlo Toniati, insieme in collegamento da Oxford Giacomo Gorini, immunologo, che sta portando avanti insieme all'equipe dell'università e dello Jenner Institute I primi test di questo vaccino. In occasione poi del 23 aprile, alla partenza ufficiale in Inghilterra della sperimentazione del vaccino, no? Abbiamo parlato di questi oltre 500 volontari pronti a sperimentarlo. Adesso si apprende, quindi il 23 aprile era appena partita questa sperimentazione, che la multinazionale farmaceutica AstraZeneca è entrata nella squadra stringendo un accordo con lo Jenner Institute e sarà responsabile dello sviluppo, della produzione e della distribuzione del vaccino a livello mondiale. Ad oggi ci sono delle buone novità, credo, a Carlo Toniati, appunto direttore scientifico medico biologo di IRBM. Buonasera Toniati. Buonasera, buonasera. Quindi mi pare che almeno come buon aggiornamento c'è il fatto che è stato già testato su 320 volontari, che non è risultato tossico, è ben tollerato e sicuro. Già questo è un primo passo? Sì, questo è un passo che veramente importante. Eravamo molto ottimisti da questo punto di vista, però insomma è sempre meglio prima vedere, verificare sul campo che le cose stanno come ci si aspetta, e sta tutto procedendo molto velocemente, devo dire anche più velocemente delle più rosee previsioni, quindi lo sapremo veramente in poco tempo. Per giugno noi sapremo se funziona e se è il caso poi di continuare la sperimentazione su più pazienti. Quindi sta andando tutto bene al momento. Insomma, bene, perché mi sembra che già a giugno passerà appunto ad altri, cioè si sarà sperimentato su altri 5.000 soggetti, 5.000 volontari, no Toniati? Sì, dovrebbe essere così, e io, come dite, da scienziato sono sempre prudente, non si farà questo passo se non c'è evidenza di buona efficacia nei primi 500, però, come dire, ripeto, noi siamo ottimisti. Quindi se tutto va bene dovrebbe partire già il trial clinico in 5.000 pazienti. Quindi entro due mesi si dovrebbe sapere, insomma, se ulteriormente il percorso procede in modo positivo, sì. Dottor Toniati, no? Senta, ecco, il fatto che si sia inserita anche questa multinazionale farmaceutica, l'AstraZeneca, significa accelerare anche questo percorso, perché ovviamente no, c'è un potenziamento anche delle risorse non da poco? È quello che ci si augurava in qualche modo, perché secondo questo accordo bisogna riconoscere che l'AstraZeneca poi partirebbe con la produzione ancora a rischio, perché e anche se per giugno ci sono evidenze che funzioni, poi i dati più certi li avremo verso settembre. AstraZeneca è pronta a partire con una produzione a rischio, magari poi a settembre siamo tutti un po' più tristi perché abbiamo cattive notizie, però è effettivamente quello che ci serve, insomma, partire in anticipo e cominciare a vedersi l'entrata in campo delle grosse industrie farmaceutiche e mi permette di dire, insomma, anche dei governi, insomma, accordi di questo tipo prevedono anche sicuramente qualche azione da parte dei governi. AstraZeneca è una grande industria farmaceutica inglese, no? Immagino che ci sia interesse da parte di tutti a far sì che questa cosa vada avanti. Quindi è una bella notizia, speriamo che se ne aggiungano altri. Ecco, vedevo anche proprio un annuncio di poco fa di AstraZeneca che dice: vogliamo essere pronti a lanciare e fornire fino a 100 milioni di dosi di vaccino entro la fine dell'anno. Questo ovviamente se tutto andasse per il meglio. Toniati, tra l'altro, voi siete, mi pare, in questo momento la sperimentazione più promettente, più importante per il momento in Europa, anche se in tutto il mondo ci sono un centinaio di laboratori che si stanno muovendo per il vaccino, no? Guardi, noi sì, siamo sicuramente tra i più avanzati. Sta accelerando tutto, insomma, sicuramente anche negli Stati Uniti adesso c'è un vaccino di tipo diverso che sta procedendo verso la fase 2, è meno, come dire, provato rispetto alla piattaforma che stiamo usando noi, però come ho già avuto modo di dire, veramente tifiamo l'uno per l'altro, speriamo che più di uno funzioni in maniera da poter, come dire, sopperire alle necessità di mezzo mondo, insomma, non della singola nazione, della singola. Certo, come si diceva l'altra volta anche con l'immunologo da Oxford, Gorini, tifiamo per tutti, nel senso il primo che arriva meglio è per tutti quanti. Un'ultima cosa, Toniati, siccome ogni volta che ne parliamo con effetto notte qualcuno si chiede ma perché sperimentato in Inghilterra e non in Italia? Lei l'altra volta, la prima volta, aveva spiegato due volte fa che è per una questione logistica. Beh, sono due cose da riconoscere. L'Oxford Institute, cioè stiamo parlando di un'eccellenza assoluta, quindi hanno una lunga storia, una tradizione nella sperimentazione dei vaccini e hanno organizzato le cose in maniera rapidissima. Quindi, come dire, è stata la naturale evoluzione del vaccino. Poi che si testi in un paese o in un altro, penso che sia poco importante. L'importante è avere la popolazione, se paradossalmente adesso dovesse ridursi, come magari ci auguriamo tutti, la pandemia, diventerebbe pure un po' più difficile dimostrare l'efficacia di un vaccino perché ci sarebbero meno pazienti. Quindi, come dire, prima si fa e meglio è per dimostrare le cose come stanno. Allora ancora buon lavoro e a presto per aggiornamenti, speriamo il più positivi possibili. Grazie dottor Carlo Toniati, dell'IRBM di Pomezia. Grazie. E ci sentiamo a momenti. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano, sempre con voi, puntualmente, quotidianamente, ci sono degli ascoltatori che non possono assolutamente fare a meno di me e di effetto notte. Dario dice, domani, anche se è primo maggio, che ho detto che domani mi riposo un attimo, dice, i medici e gli infermieri lavorano, ci sono invece delle categorie di lavoratori privilegiati, dice Dario, poi insiste ancora e dice, domani si fermano anche tutti i conduttori televisivi, chissà, dice Dario, scusami, io tra l'altro tante di quelle ferie arretrate che prima o poi qua mi chiederanno proprio per questioni, no, anche di peso fiscale eccetera, di farle queste ferie. Quindi Dario, mettiti in pace, il cuore in pace, che io prima o poi mi dovrò assentare. Ecco, questo per diciamo arrabbiatura di Dario, che evidentemente non ne può fare a meno. Adesso invece noi dobbiamo assolutamente collegarci con gli Stati Uniti con il nostro Marco Valsania. Ciao Marco. Ciao, buona serata. Caro Marco, allora intanto Trump, presidente americano, ha dato notizia, almeno abbiamo ricevuto questa notizia, che nonostante ci siano ancora molti contagi e molti morti negli Stati Uniti, ha deciso di non rinnovare le restrizioni e praticamente mezza America potrebbe riaprire. Quando? Da domani? Ma non proprio da domani, però Trump sicuramente, diciamo così, freme per spingere in qualche modo alla riapertura dell'economia degli stati. Ricordiamo che la carta economica è quella che a lui è più cara, diciamo, e anche in vista poi delle così di giocarsi la partita elettorale per la rielezione a novembre alla Casa Bianca. Quindi ecco, diciamo, da tempo Trump freme. A questo punto è già, diciamo, si era intuito nei giorni scorsi, l'amministrazione stessa ha deciso di non rinnovare le raccomandazioni. Non erano ordini, diciamo, federali, perché poi ogni Stato decideva per conto suo, ma le raccomandazioni, le linee guida federali per il social distancing, che fondamentalmente raccomandavano agli stati di seguire una serie di criteri di sicurezza sanitaria. A questo punto questi scadono stanotte e quindi gli stati a questo punto sono così legittimati anche così moralmente e politicamente a seguire il loro cammino per cercare di riaprire, se vogliono, attività economiche. Un cammino molto incerto e molto a macchia d'olio. È vero però che le pressioni stanno crescendo per almeno parziali riaperture. Facendo un rapido conto, circa 31 dei 50 stati americani stanno cominciando o dovrebbero cominciare nei prossimi giorni a sperimentare primi parziali riaperture, dal Texas alla Florida, molti stati del centro e del sud degli Stati Uniti, mentre invece stati come più densamente popolati come California, New York, Illinois, manterranno un atteggiamento molto, molto più rigido di stay at home orders e di lockdown. Vedevo però, che tra l'altro ci sono 30 milioni di americani senza lavoro in 6 settimane, questa è la crisi prodotta. Esatto, questa è un'emergenza che sta spingendo Trump a cercare di riaprire il più possibile o spingere per la riapertura di qualche attività economica. Perché comunque il dramma economico cresce, 30 milioni in 6 settimane, tra l'altro un dato probabilmente molto sottostimato, perché i sistemi di raccolta delle domande di sussidi di disoccupazione, questo sono i 30 milioni, in realtà sono molto fragili, antiquati, eccetera. E uno studio recente, proprio di queste ore, di un think tank, Economic Policy Institute progressista, calcola che forse almeno il 50% in più di potenziali domande non è stato raccolto da questi dati, quindi potrebbe esserci in realtà anche di più, 50% in più già di disoccupati ufficiali. Marco, quindi questo è per quanto milioni. Riguarda la crisi economica fortissima, ma leggevo, a parte che sono appunto moltissimi contagi negli Stati Uniti, l'abbiamo detto in questi giorni, anche le vittime solo a New York, oltre 18.000 vittime in poche settimane, questa notizia dell'orrore a New York, decine di cadaveri in due camion sono stati trovati davanti a un'agenzia funebre. Sì, a Brooklyn, uno dei più dei simboli, dei segni di questa surreale crisi, un'agenzia funerale di pompe funebri che appunto non aveva sufficiente capacità, in realtà un po' raffazzonata, e alla fine aveva affittato due furgoni e li aveva caricati di cadaveri, neanche con sistemi di refrigerazione, per cui alla fine l'odore dei cadaveri che stavano marcendo, scusate la descrizione, ma è quello che ha allertato le autorità. Allerta. Senti, Marco, per chiudere, visto che gli 007 americani hanno sancito che il virus non è stato creato dall'uomo, no? Quando c'erano le accuse nei confronti della Cina di averlo manipolato, eccetera. Esatto, hanno sostanzialmente hanno escluso, di fatto concordano con l'opinione della comunità scientifica internazionale, che il virus non è man-made, non è quindi un'arma biologica cinese. Però l'altro lato di questa medaglia è che l'amministrazione Trump ha di fatto ordinato agli 007 americani di indagare comunque sulla pista cinese e sulla pista anche dell'OMS per cercare più possibile prove di insabbiamento di dati e informazioni cruciali sull'epidemia e anche di un'origine in laboratorio del contagio, magari una fuga del virus, perché proprio ora il Washington Post ha pubblicato una storia che fondamentalmente conferma che Trump vorrebbe, se possibile, far scattare sanzioni, punizioni, richieste di risarcimento nei confronti della Cina. Lo aveva già indicato in conferenza stampa nei giorni scorsi, ma sta considerando proprio delle opzioni concrete, chiedere danni per ciascuna vittima, tipo 10 milioni di dollari per vittima americana, addirittura non ripagare forme di debito, di obbligazioni. Sta pensando quali ritorsioni nei confronti della Cina. Anche per distrarre dai propri fallimenti domestici, di questo periodo. Su questo ci aggiorniamo allora. Grazie al nostro Marco Valsania da New York. Ciao Marco, un abbraccio forte. A voi. Ciao Marco. Affacciati alla finestra, amore mio. Oh yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. E che tempo vedremo dalla finestra? Lo chiedo a Edoardo Ferrara di Trebimeteo. Buonasera, Edoardo. Buonasera a voi. Che tempo per ora ancora dalla finestra potremo guardare in questo ponte, che è un ponte insomma diciamo un po' anomalo, nel senso che dove si va? Non si va. Sì, dunque attualmente siamo interessati da una perturbazione che sta portando delle piogge temporali soprattutto sul nord Italia. Per quanto riguarda il ponte del primo maggio sarà estremamente variabile, in particolare domani venerdì ci attendiamo un po' di nubi irregolari con ancora qualche acquazzone o breve temporale possibile su Alpi, Prealpi, sul Triveneto e isolatamente lungo la dorsale appenninica. Le temperature saranno in lieve ripresa soprattutto al nord rispetto alla giornata di oggi, con clima abbastanza gradevole. Poi sabato, tra sabato e domenica ancora della variabilità, però c'è da dire che sarà il sole a prevalere su gran parte d'Italia, ma in montagna, quindi su Alpi, Appennino, Prealpi, avremo ancora la possibilità per qualche scroscio di pioggia a breve temporale che potrà occasionalmente sconfinare anche sul versante adriatico. Quindi sostanzialmente diciamo saranno tre giornate piuttosto variabili, però il sole non mancherà e le temperature diurne saranno comunque spesso gradevoli. Quindi alla finestra un po' di sole, un po' di pioggia, ma con temperature gradevoli. Accontentiamoci per il momento di questo. Grazie Edoardo Ferrara, buon tempo comunque sia. Grazie Edoardo, il Tempo Meteo. Buona serata a voi. Ci sentiamo tra pochi secondi.